Attenzione 10 K. Hola, hola, hola, 3, prova, prova. Hola, hola, hola. Avanti, avanti, avanti, avanti, chi chiama? Chi chiama? Qui Antonio della Sardegna, K avanti. K che ti sto copiando, K avanti, avanti. Buonasera anche a lei, buonasera, qui Sardegna, Italia. Chi è che chiama Italia? Avanti. Hola. Che non habla in sorride quando después non habla con alguien de lejos, con ella ahí. Me cago en la puta hostia. Qué pocas luces tenés que voy a hablar. ¡Y yo! Se calla muy rápido. Está dando cara ya. A las 4:30 por ahí vaya con el último. Attenzione 10 K! Parla di qualcosa, Gabriele. E avanti? Tanto. Già, buonasera. Buonasera a te. Avvenisci? Ma a Cantubari, non lo so, poi ieri com'è andata che non c'ero. Non c'era nessuno. Io mi sono con l'apparecchietto di camera solo. E già va bene. Cappa, bravo, faccia in sala un gallo, non che per un brecco, beh. Io adesso sono in camera da letto che è più fresca la stanza. C'è caldo il sala. Appunto. Pure in occhi oggi c'è un ventilatore, c'ho di quei ventilatori con le palle in ferro o in alluminio, cosa è. Quelli sono i migliori, rinfrescano più di tutte. L'avevo comprato quando c'avevo la casa in via dei Corsi, che però me di gas viene anche qui. Ho pagato più di 50 euro. Ma attento al ventilatore perché ci fa venire malani e ci piglia l'ossi. E non lo puntare dove c'è il bambino che invece piglia di malani. No, l'ho messo girando. Sì, se lo metti che non prende a lui, fa girare l'aria e basta. Però se lo punti si fa male. Io una volta mi sono addormentato con il ventilatore acceso e la macchina non riuscivo manco a muovere. Credo si era strappita la vita. Già lo so, già lo so. Capologio, da tutti i giorni ho comprato una Macedonia, affatta naturale, con fragole, ananas, e mi sembra pezzi di melone pure, c'è buona retta, due cose in 3 euro ne ho preso, ma un vasettone bello, Ah, capitano, mi si vede, mi appasco. Via Pascoli, sì. Lo fanno loro, la fanno loro, naturale. E ti dico che è buonissima, anche mangiata così, non è condita né niente. Ti dico che a me va bene, non li metto nulla, proprio naturale. A me la posso mangiare io e Gabriele. La posso mangiare. Fatta naturale così. E anche la papa ci sta bene. Papà, buona veramente. C'era la ragazza che non li stava facendo, ne stava facendo un'altra, ne stava facendo roba di, stava pulendo le fragole, l'ananas, buona rita. E adesso no, bisogna mangiare molta frutta e verdura, perché con questo caldo è bere molta acqua. L'acqua, anche se non è guida, devi berla, perché devi batterla almeno 2-3 litri al giorno. Non è piena di conservante, io gliela porto Torres, ero. Ha detto, va, mi fermi i chili. Ha già mangiato una pasta con come si chiama? Coi gamberi. Pasta ai gamberi e sugo ai gamberi. E dove sei andato? Ah, coso, un bar del corso, come ti si chiama anche qui? Una monta da cagamutante. Cagamutante? A chi è Antonio? E la cosa c'è? Ma Tore, Tore con Caterina. Ma dico che ho mangiato bene. Che ti ha pagato? No. Sei solo? Solo io. Ah, davvero un freco, vera. Da voi ne giocate da Sassa ne viene un caggio. Per carità. Ma lì si stava bene. E come mai era produttore? Per la voce? No, ma ci ho fatto un giro io scendo sempre con la moto. A me mi piace girare per Porto Torres, Pratamona. Vado sempre io in quelle zone. Ah, e anche io già vado. Solo che la voglia a volte non c'è. Perché la sera io vorrei andare a prendermi un po' di fresco, poi penso dobbiamo mangiare, tutto questo si fa tardi. O ci vai presto, ma c'è caldo. Ma mi so confermo in Chivi, mi so confermo e stavo bene, la verità. Stavo bene, cosa c'è Gabriele? C'era fresco lì a Porto Torres. Cata, nazzo in occhio a Sassa, riunì a gaccio. Perché lì c'è l'aria di mare, e non va, si respira meglio. A Scirocco, gamatin, che stava lì con un bel convinto, vera, addirittava a Ticudo, col motorino dietro, l'ha giocuto un allungo, l'ha giocuto, è nel decisore che c'è ottava, l'ha giù messo. Quanto fa la moto? E 80 già li fa. Se la frenare, esce più veloce, non ce la fa. No, già, riesco a fermarla, già. Sì, ma se la fai come ce l'avevo la mia, faccio 110, che la frenata era molto lunga, Papà. E ti dirò che già va. È fatta sul normale la mia, capito? Non è proprio... Sì. La mia c'aveva i pezzi puliti e la mamma ci ha passato il tono. Insomma, aveva il lungo, eccetera, eccetera. No, la mia c'ha DR, c'ha. Vanno un pochino di meno, ma molta forza in salita c'ha pure. Ma la mia, sino a quando l'ho venduta, perché poi mi hanno avvisato che me la volevano rubare, e mi hanno detto vendita perché te la vogliono fare. Me l'ho venduta, la vorrei anche dare pure a chi ce l'ha già venduta. Ciappa, e beh due gusti, l'abbia cuttuna su Sarroccio, che manco quattro accusare. Ma non me l'hanno voluto dire chi era, io volevo sapere chi era, così almeno mi regolavo, invece non me l'hanno voluto dire, però noi te l'avevamo detto che ce la voleva, da poi vedi cosa voleva, però non te lo possiamo dire chi è, vabbè, ok. Gianni ci dà subito retta, la giubbotta è vendita, me l'ho venduta, mi sono comprato la 500 Giannini con quei soldi a seconda mano. Che scherzo gli avrei fatto, che ne avevo pure, avattelo davvero tanto, ne avevi tirato la ruota, come te l'hanno da pace, ma da bum bum bum, va, furami la moto, va. Ma me l'avrei rotta, non conviene, invece così, ho avuto i soldi puliti, e poi si è arrangiato chissà, l'ha rifatta chissà, poveraccio, l'avevo appena comprata, la vuoi di una vita ve la ne va. Mamma mia, se l'avrei trovato. Se l'avrei trovato, gli aveva mangiato rigore a mossi. Bastardi, allora rubavano un bel moto. Ehi, io mi ricordo che una volta c'è cuore, eravamo fermi e c'era uno che conoscevo con questa Vespa. Si è avvicinato un uomo e ha detto, mi hanno rubato la Vespa bianca, quella lì era azzurro metallizzato, questa che c'era ferma con lui, che era uno che conoscevo io, non posso fare un uomo, Beh, fatto sta che questo qui dice, ascoltate, se mi buscate la mia moto vi do 150.000 lire, allora ce l'ho lì. Mi è come questa qua, solo che è bianca, c'ha la sella lunga come questa qua, proprio precisa, solo che era bianca. Vabbè, se lo vediamo, se riusciamo a vederlo, glielo facciamo sapere. Cazzo, quando sei andato mi dai, tu cazzo non ha conosciuto una moto sua, era giù per l'inciata, mi era giù fatta io. Perché molti lasciavano il libretto sotto la sella all'epoca, quindi era la doia. E allora, questo qui dopo, da quel giorno lì io non sono più stato a Sacro Cuore, non ho voluto più, perché era gente che io frequentavo e in mezzo a quelli c'era anche chi rubava, quindi io non lo sapevo, quando ho visto questa storia qua non ci sono più stato. Però intanto, se vuoi ci arredi, la vita con lui in giro. Se vuoi ci arredi, la mia con una zussaglia, smacco di gadera. Avanti, chi è? Avanti. Ehi, non ti sento, parla, chi sei? Sei molto basso, da dove stai parlando? Da Proaghe? K? Sì, ti sento con un Santiago di 3, una radio di 1, se c'è QRM ti copre, capito? Sassari? Ma sei in macchina? Ah, capito. C'è anche Antonio, vediamo un po' se ti sente. Antonio, lo senti l'amico di Proaghe? Sì, l'ho sentito basso, ho sentito Proaghe, ma cos'è in macchina? Non so se lui sente me. Ti sento, ti sento. KK, sei un po' mezzo QRM, ma già ti sento. Io ho stazione fissa, e tu? Ma non siamo in bar. Siamo stazione fissa. Come ti chiamo? Come ti chiami di nominativo? Tu scienza della propagazione, non si intendevi nulla. In barra mobile. Mi ha detto barra gommata, penso che sia in macchina, sì. Ma c'è anche il camion comunque. Adesso ti sei alzato, dove sei diretto? Verso Sassari? No, noi stiamo Adesso si è aumentato di segnale anche di radio, ci ascolto meglio. Hai detto che siete oltre 700 metri di altezza e non a capo. Ho capito. Ah, quindi sei in barra pesante? KK. Antonio, ripeti, in barra pesante non a capo, so. KK, dai. Non ti sento, aspetta che c'è un messaggio di Gesuino. Per domani, per lavoro. Aspetta un attimo. Vai. Quindi state trabaccando o avete finito? Attento, l'amico di Proaghe. Ho detto, avete finito di lavorare? KK. Che baracchino state usando? Che antenna che antenna avete? Io ho la 2001 nuova in vendita, se interessa qualcuno fammelo sapere. Ce l'ho in vendita, è nuova, mai usata. Comprata e lasciata aperta. Sarà la 2001, non la 2000. Oh, ma che cos'è? Sigma, cos'è? LEM, che cos'è? Rimarca. Qui qua già. Stavo ascoltando il messaggio che mi hanno mandato nella ditta, capito? Domani 9:30 in capannone. Ah Silvia, no, io ho la LEM va meglio, la Turbo 2001 è molto migliore. Io ho la Turbo 2001 che è della LEM, è un'antenna che è come se avessi la Mantova, se la conosci, la Mantova a casa tua, perché io da sotto casa, dalla macchina arrivavo lo stesso segnale che arrivo da casa con l'antenna grande sul tetto. Sì, si possono modificare, però devi andare a Borole per modificarlo. C'è Albino a Borole che li modifica, li aumenta di watt, li mette l'eco, li mette tutte le cose che ci vogliono, dai, il bip secco. Sì, a Borole ce n'è uno che lo fa, si chiama Albino, non so se tu lo conosci. Potrebbe farti lui. Quello va ancora meglio, quello vecchio per fare le modifiche va ancora meglio di quello nuovo. chi è già? È un camionista che non ha capito anche. Ciao Marco. Ah vabbè, ciao già, buonasera. No, perché io l'ascolto Santiago 5 ma radio prossima allo zero. E non capivo, vabbè, ok. Vabbè, salutalo da. Salutalo tu, magari ci sei. Ma sono liscio, dubito che mi coppi. Lo sai, no? Ha detto che ti sente, ciao. Ha detto che ti sente, ma. Beato lui, io purtroppo non, di radio non lo copio, è proprio bassa. Ciao Anto, ben sentito. C'è qualcuno ancora vivo in 27, dai. Ci siamo, basta entrare e ci siamo sempre. Beh, se uno entra, qui entrano anche gli altri. Cosa hai detto? Ripeti che non ci ho capito che c'è molto QRM. Avvicinati il microfono alla bocca. Sì, ci sono gli amplificatori lineari. Ci sono, da 300 watt, da quanto di voi ci sono, anche da 1000-1200, però costano qui su. Ok, buona continuazione, e buon tutto, dai, grazie per il consiglio, avanti. No, ce la risentiamo, a Ploaghe ha detto che sì. Ce la risentiamo alle prossime, ciao ciao, avanti Marco. Ma Ploaghe era paramobile, no, camionista paramobile, o aveva l'impianto a casa? Camionista, c'hanno il camion da campo, sono in una campo. Perché sai cos'è, una volta negli anni 80-90 c'era così tanta gente che potevi fare i confronti con i paesi intorno, no? E chiedere controlli, riceverli, cioè darli e riceverli, adesso non c'è più un'anima e quindi non sappiamo che portata abbiamo, in linea così, capito, senza lineare o anche con il lineare, perché no? Ah vabbè, interessante, ci sentono, quindi... Ploaghe già era un po' che non sentivo Ploaghe. Guarda, io di Ploaghe ricordo mille anni fa che c'era una fantomatica, mi pare Sabrina di Ploaghe, e la sentiva solo Marco 131, tutto il resto di Sassari non la sentiva, tant'è che stavano pensando che non fosse una burla. Io di Ploaghe me ne ricordo una che, vabbè, lasciamo perdere, sono andato a trovare a casa sua. Ma a Ciupation, Gianni il Caldo, comunque ho sbagliato, forse era di Pozzo Maggiore, quella che dico io, era di Pozzo Maggiore, e la sentiva solo uno a Sassari. Questa era di Ploaghe, questa era di Ploaghe, andavo di notte e lei scappava dalla finestra, abitava al primo piano, io? Lei abitava al primo, ma tu andavi a fare Romeo, lei Giulietta, cos'è la treccia, ti mandava giù per salire. Non andavo a Ploaghe, ma nulla. Anche Anto, capito, Gianni già si è sempre organizzato bene. Ha fatto bene, cosa dobbiamo fare? A sprecare benzina. Ha fatto bene, meglio così. A giocare a scacchi andavano, a dama, sì. Sì, non è pure cosa mi si è fatto Burueo. È andato a giocare a scacchi in Chimino. Una volta è scappato da casa col pigiama. Giunta subito in macchina, lui era pure un cazzatore, ci beccava qua. Mamma mia, magari caricava le pallottole al lardo salato, capito? Quindi quando arrivava il lardo era bollente e col sale friggeva, col sale grosso. Marco, Natalino ti ha chiamato. Sì, allora, Natalino mi ha chiamato proprio stasera, per non dire poco fa, e l'hanno chiamato. L'avevo chiamato io 2 giorni fa, ma era Doloria, non ce la sentiva manco di parlare. Oggi l'hanno chiamato. E quindi, vabbè, non so dire reparto e dov'è, casomai in privato, se volete andare a trovarlo, se la sentirà, che domani lo mettono sotto. E alle 2:30, non lo so, me l'ha mandato un messaggio, Ah, vabbè, ve l'ha comunicato io. E quindi anche oggi era Dolori, ho detto dai, adesso andrà a migliorare la cosa. Poi ho detto, dopo l'operazione ti danno roba buona lì, morfina, non so cos'altro, e quindi sarà un po' meglio. Vai Anto. Io ho sentito, me l'ha detto la moglie, me l'ha detto. E speriamo che vada tutto bene, qui sarà solo un brutto ricordo. Certo che è stato sfortunato lui, perché anche quell'aneurisma è una cosa da risolvere, è una cosa anche lo stesso delicata, però quello basta avere un bravo chirurgo, come si dice, quello dei vasi sanguigni, poi non mi vengono i termini, già avete capito, no? Vascolare, ecco. Mamma mia, cioè, roba brutta proprio, cioè. Oh, ma lo sapete che voi non avete radio accese lì, no? Radioline, TV, no? No. Perché quando parlate mi entra le radio broadcast in, sai, quelle degli 8 MHz, 9 MHz, mi entrano piano poco poco sull'audio. Sicuramente lo fa perché il cavo mio è molto molto lungo e quindi si tira dentro altra roba, dalla calza, no? Ma l'antenna? Qua c'è un caso da morire, adesso sto un po' meglio, Marco, perché sono in camera da letto, da questa parte non batteva il sole. Ma prima cazzo stavo sciogliendo. L'antenna, Marco, cosa hai fatto? Allora tu, caso strano, c'era il difetto, vado a svitare il barilotto che c'è in terrazzino, dove avevano tagliato, era tutto un ossido bianco, l'ho disossidato con quel prodotto, so che diventa di nuovo tutto bianco, sembra gesso, sembrami, ed è tutto ossido. Insomma, svito, lubrifico, riavvitto, come per magia, stazionario 1 e 1. E allora non è l'antenna ma è il barilotto. Però sai cos'è, siccome quei PL di Fusaro sono tutti ossidati e non diventano di nuovo bianchi, dovrò, quando deciderò definitivamente di stagnarlo, gli metto i PL nuovi, possibilmente buoni, possibilmente bacchellite, il bariletto lo metto nuovo di trinca e che sia anche di qualità. E poi appena montato tutto gli metto bello l'autoagglomerante in modo che non passi una goccia di acqua o di umidità. E così forse ho risolto. Kappa. E allora l'antenna non c'entra nulla, no, io ce l'ho direttamente dal tetto arriva. Assolutamente barilotto, no. Santo, purtroppo è andata così, quelli là, quegli imbroglioni, i primi sono scomparsi, sono latitanti perché se li beccano hanno fregato anche altre persone, è meglio che non li trovino, a parte che la gente ci aveva anche altri casini legali, droga, non so, vabbè, non ne parliamo. E quindi non ho potuto nemmeno rifarmi su di loro, sono latitanti, capito? Perché io francamente di spendere 120 euro per rimettere il cavo nuovo, poi sai cos'è, devono fare ancora il gabbiotto del palazzo, quindi mettono mano, magari fanno ancora più danno o tolgono tutto, non lo so. Fatto sta che io però non è che mi devo rifare l'installazione ex novo, no, per mettere un po' di intonaco, un po' di pittura al gabbiotto. Io casomai gli dico di lasciarla lì, di non toccare nulla, tanto a intonacare intonaca intorno alle zanche, capito? Non è che è necessario, non devono buttare giù a zero, ricostruire il coso, capito? Le gabbiotte devono solo intonacare e pitturare, e il catrame sopra, non è la parte inclinata, e quindi spero che lasciano tutto com'è. Per il cavo, boh, io, cioè, a cambiare 125 euro IVA compresa non li spendo, non c'è il tanto, non più. Quanti metri sono di questo cavo? 50, io avevo preso la matassa da 60, avevo tagliato 10 metri in più che ce li ho a casa, e quindi saranno, sì, sono andato un po' a chilometro, però 50 metri in base alle misure fatte c'erano tutti, buoni anche, perché il cavo in realtà arriva fino in camera mia. Io qua ce l'ho dietro il divano messo arrotolato per un largo, no, in tutta la lunghezza e altezza del divano, in modo da non fare bobina. Allora io ce l'ho più corto, ce l'ho 20. Io 30, non me ne ricordo, mi sa che 30 metri ci dovuti mettere. Poi l'antenna ovviamente va al centro del tetto dove c'è il gabbiotto, da lì da terra sale su, quindi 3,70 m più un metro, altri 4,70 m di... Ah, e poi no, perché poi gira, cioè tutto un giro devi fare per arrivare all'angolo mio, capito? È un casino, un 20 metri. Per fortuna che ho preso l'RG 213, perché quando quando io nel 92 avevo messo il 58, non prendeva nulla, avevo i segnali tutti attenuati, mi sentivano basso basso, e poi avevo smesso, non era uno schifo, era, c'avevo anche la boomerang all'epoca. Io nel 58 l'ho avuto per 10 anni, non mi ha mai dato problemi, mi sentivo tutti bene, poi deve essere muovo anche la vita, non lo so. A me mi sentivano tutti bene, l'ho tenuto 10 anni, poi l'ho tagliato, era sì secco perché sempre va asciugato il sole, però dentro era buono. Eia, guarda, il bello sarebbe abitare l'ultimo piano però con l'ascensore, perché qua l'ascensore non ce n'è, in modo da avere pochi metri, tipo 10 metri c'è tutto, allora sarebbe già un bijou. E comunque l'avrei messo comunque buono, magari sottile avrei messo il 155, che è pari al 213 più o meno, però è sottile quanto il quasi quanto il 58, dai, mezzo millimetro più, mezzo millimetro meno. Io ho quello. Sì, hai fatto bene tu, perché questo cavo grosso è un casino, a me mi ha rovinato un baracchino il cavo grosso, che faceva trazione, basta spostare il mobilettino qua appena appena, e mi aveva rotto il filtrino anti-PVA di un 3009 dall'interno, e poi era tutto strano, tutto in uno scatolato metallico, non riuscivi a saldarlo, a disaldarlo, un caos, e allora l'ho bypassato, infatti uno di quelli di 3009 non è più... forse omologato, no? Se ti do sorte, già. Capito. Ci siamo sopravvoluti, ma... Gamma. Io ho messo l'H155, ho messo, però una trentina di metri ne ho forse. Non me lo ricordo adesso, lo sai. Se c'è l'H100. Io ho detto già, abbiamo parlato in due con qualcuno. Sì, io e tu abbiamo parlato in due. Passato Gianni qua. Già lo credo, se non passa lui lì. Comunque sia, come si dice, che mi trovo bene, la verità. Ho fatto un bel impianto, la verità. Cioè, me l'hanno, la verità, me l'hanno fatto. Io non ho fatto niente. Me l'hanno fatto ed è fatto bene proprio. Da quando l'ho messo non l'ho, questa qua non l'ho più toccata, non sono più salito su. La verità mi ha fatto un bel lavoro, veramente bello, bello, bello, bello. E ecco, già stavo, vieni. E vabbè, ecco, è 2D. Sono un po' di mesi, ma a me andava così, no? Non è dubbio. Se va bene sì, cosa che devi toccare. Se va bene la lascio così. E invece quando fa l'effetto, come ho fatto a me, che andava sullo scala la lancetta nelle stazionali, prima a 1,5, poi a 2, poi a 3, poi quasi fuori la scala, c'è non male, no, che magari cosa che non andava bene. Ho controllato, cambiato e rifatto tutti gli spezzoni ancora. Ma lo devi comprendere che non metterai nulla di spezzone. Se io me ne accorgo non è... metto subito in diretta e me ne accorgo subito che non sono di spezzone. Spero che non ci sia mai bisogno, perché sono rotture di scatole, sono è uguale a quella che c'ha Marco l'antenna. Speriamo che duri più possibile, oltre che non voglio spendere soldi, oltre che spero che sia una cosa durativa. Il lavoro è stato fatto benissimo, è stato fatto una persona che mi ha fatto un bel lavoro, lo posso dire apertamente, ha fatto veramente un bellissimo lavoro, quindi no, non penso che ci siano problemi. Ma ti ho detto una cosa, non ci ho pensato così, ti ho detto lo metto in diretta e me la colgo subito. Se non vuole in diretta, come fa a vedere se l'ispettore funzionano o no? L'ispettore devi provare, e per provarmi devi attaccare il rosso e trovato il microfono. Normale che non lo puoi mettere in diretta, se lo metti in diretta devi avere anche il rosso e trovato nell'apparecchio, se no non fa un cavo, se no come hai detto tu non fa. Io praticamente gli ispettori li ho tutti rifatti, mi ho tolto anche quel problema lì, ho visto che non andava lo stesso e ho capito che era l'antenna, appunto, sono andato per Beh, pure una fesseria era, una cosa che costa una miseria, però ti ha fatto uscire in gambo. Sì, non mi è costato nulla perché ce l'avevo in casa, in acciaio pure ce l'avevo qui. Non è quello il problema è che non funzionava bene, se può essere una cazzata però non ti fa andare bene l'impianto e rompere le scatole, capito? E poi come antenna è una bestia, esce fortissima, ha un'erogazione che è una paura. Ah, tu? Ma io credevo che tu avessi la Ringo, mi avevi detto una volta che avevi la Ringo però rinforzata, l'avevate fatta in modo da essere più robusta, ma avevi poi cambiato allora, l'hai messa come la mia, la Energy c'hai. Allora, se te l'ho detto l'altro giorno, si chiama la GPS, si chiama, della Sirio, però è uguale alla tua. Magari sì, magari spengiato come sono, me ne sono dimenticato. Sì, sì, dalla Sirio ti dà anche quei manicotti da mettere tra uno stilo e l'altro, che sono utili per irrobustire anche i giunti, e poi vanno nastrati anche lì con l'agglomerante, perlomeno io lo metterei. Questo tanto, guarda che a certi è durata un anno, a certi 2 anni, gli hanno dato problemi o per i gente, questa c'è 10 anni, te l'ho detto, non credevo che sarebbe durata così tanto, per il vento mi, io credo il vento l'avrebbe troncata, perché qua ne arriva maestrale mie, qua c'è libero, non ho palazzi più alti, capito, da dove viene il maestrale, eppure ha resistito. Quella staffa, diciamo, non è male mi, quella staffa con cui è fatta, no? Mentre l'altra trenne, come dire, tutto il peso va a Napoli, scusa. Ma secondo te è un'altra genere si dronca? Se non esce nemmeno con gli stili, cosa si dronca a fa? Per come è fatta? Cioè vanno, quando tu li tiri, vanno a bloccarsi, non esce, capito? Il vantaggio che ha è quello. Volevo dire, siccome mi si sta asciugando la bocca, devo bere, che quella saffettina secondo me contribuisce, mentre altre antenne fanno leva sulla base, cioè tra lo stilo e la base, si spezza lì, e quella staffa sembra che regga gran parte del vento. Così come la BA27L, così come la Venom anche, quella Venom forse un po' più sottile di spessore di metallo, però non sono sicuro, dovrei provare col calibro, però la mia è sul tetto come lo misuro. E poi c'ho la Venom mezz'onda con radiali nella tenuta bene, imbustata, la volevo mettere in campagna da mia zia, ma ancora non vuole, ma già la convinco. Ah, le voglia gli apparecchi, Allora non è gustino, cioè è resistente, se tu l'hai piazzata quella, penso che sia come la mia, io ho notato che da uno stilo all'altro solo quello centrale usciva per regolare stazionarie e poi io in punta c'ho quella a fare, ciò che dicono che per i fulmini. Da uno all'altro, da uno stilo all'altro, non esci, non è come le altre antenne. Si blocca lì e capito, li metti questo coso con le viti e con cosa e via. L'avevo vulcanizzato in mare, ma via me. Dentro le viti e cosa. Non esce manca a balla, quindi dove, anche se c'è maestrale e cosa, un di ne un dopo gli togli quelli stili, non li toglierai mai. Così è vero, la Sirio ha anche quella gabbietta lì, dovrebbe essere una gabbietta antistatica. Invece dopo tanto avevo saputo che la Mantova, non mi ricordo quale, le ultime versioni, hai presente quella coroncina che c'è in punta la Mantova, no? Io credo fosse di metallo, invece nelle ultime versioni l'hanno messa in plastica. E alla fine a cosa serve questa specie di ombrellino, di polpetto messo sopra, in plastica? Vabbè, come cosa estetico. Poi non so se le vecchie fossero in metallo o in plastica, forse Gianni lo sa. Marco, erano in plastica sempre. Infatti io praticamente serve solo per tappare la punta dell'antenna e basta, tutto lì, non serve per altro. Ma l'avevamo fatto tutto, l'avevamo detto che non serviva nulla, mettere un tappo, tutto quanto siliconato e sopra vulcanizzato. zio, l'ho tolto subito perché poi è stato, dice che si spacca e poi entra l'acqua, capito? Come si scalda col sole, si spacca e l'acqua entra, quindi quando evitare, abbiamo fatto dall'inizio, da quando ho messo la nuova, ho fatto questo lavoro qua, ho messo un tappo di gomma, pure tutto siliconato e vulcanizzato, e non si è mossa più da lì. No, io credo che forse ho una gabbietta antistatica, oppure non so, c'è quella soluzione, questa specie di mini radialini sembravano, per allungare un po' la qualche centimetro l'antenna, tipo cappello capacitivo, invece un pezzo di brace gà. Sì, dalla Madonna 5 io ce l'avevo, immaginati quanti anni è, la Madonna 5 ce l'ho avuta quasi 20 anni. E nella Madonna 5 c'avevo quello lì quando l'ho comprato. Ma avevano detto no, di chiudere quello lì, quel coso con la plastica che copre il piede, di toglierla perché poi l'acqua va all'interno di quella plastica, si ferma lì e arrugginisce tutto il piede. Sì, vado a bere, riprendete, vai Antonio. Sì, sarà col bambino. Scusatemi un attimo, ma sono dovuto entrare in bagno. Quello che è eccezionale di questa antenna che ho notato, stavo dicendo che gli stili non escono, cioè si vanno a bloccarsi lì e devi mettere le viti con quelle cose, lo vulcanizzi per non entrare, va qualcosa e non andare da nessuna base, capito? A Mantova 5 c'erano le cuglie, capito? Infilavi queste cuglie e poi incastrava all'interno. Sì, la conosco, lo so com'è. Questa invece non esce nelle cose. Secondo me è la cosa più fatta bene di questo mondo, Perché non uscendo, non avendo di quei venti strani, goburiana e cosa, non te la attacca. Anche quando la devi smontare, se la devi smontare per pulirla, non so come fai. Invece la matta va lì togliere le cuglie, vabbè che la mia dopo tanti anni anche togliere le cuglie non riusciva, abbiamo provato a muoverla con Fabrizio e tutto quanto, poi alla fine abbiamo dovuto dare dei colpi di martello attorno, di modo che tutto l'ossido uscisse, mettere un po' di CRC e poi l'abbiamo tolta fuori. Ho fatto quella di coso di... No, se la devi smontare, togli le viti e abbassa, capito? Non va a sfilare, capito? Però se tu ne togli le viti, scende, gli dai il colpettino e scende. Ah, c'ha le viti per bloccare, ho capito, non avevo capito che c'erano le viti. Senta, come fa a bloccarsi? Qualche sistema c'era, però io gliel'ho fatto io. Allora, l'antenna mia... si metteva solo dentro il tubo e basta, senza bloccarla, ma questa cosa non mi piaceva. Gli ho fatto col trappo nel buco e gli ho messo un bullone passante, uno sopra e uno sotto, a croce, di modo che si blocchi. La che c'è adesso? Esatto, si infilava solo nel tubo, altro non bloccava. Stava con le fascette. No, cazzo, tu. Senti a me, l'antenna piazzata, poi la devi mettere nel tubo. Tu la mettevi nel tubo, finito lì. Non c'aveva nessun sistema bloccante, gliel'abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto il buco col trapano e messo le due viti di quelle ai acciaio. Oh, basta, per bloccarla sul tubo, capito? Anche se infilava bene, capito? Però è meglio bloccarla. E che non la sacchi mai così? No, per saccarla bisogna svitare le viti e basta, ci sono due viti d'acciaio. Sì, ma dico, in intemperie non riuscirà mai, capito? Ma come si può dire tu? Cazzo, ho visto che ci sono state queste trombe d'aria che ne hanno portato via tetti, di tutto e di più. Non l'antenna, tutta la camicciuglia. L'altra antenna ce l'avevo così in via dei Corsi, ci avevo messo due bulloni passanti, ti ricordi quando aveva fatto questa buriana che si sta buttando brutto, non gli ha fatto nulla quella, non gli ha fatto niente, perché non c'erano le staffe, capito? È meglio così, dai. Adesso ce l'ho in magazzino, ce l'ho sul suo palco, è montata. E come mai non ha messo quello? Ah, oh, volevo una 50, una 50 volevo. Però funzionava e pompava, però volevo una 50. Io ho avuto solo la Gran Play che non era 50, però arrivavo anche da 9,5, era pompa forte, cioè per radiare 2,75, era quella della Lembra, non so se la conosce, che è radiare in vetronese. Sì, sì, che ci pompava, che poi non è che ci sia tantissima differenza, ho notato. La differenza c'è lontana tanto. Quella deriva non bene per la città e dintorni, ma in lontananza la città vi spara di più. La pompava pure in lontananza, potete dirne. Ti ricordi tempo fa, molto tempo fa, si diceva che la 5 ottavi non si potesse mettere, com'era questa storia, che si potesse usare le quarte d'onda, ma tipo anni 80-90, ma era una bufala o cos'era? Me lo ricordo anche io, però mi ricordo anche che non si poteva usare la direttiva. Adesso invece, nelle ultime concessioni che hanno rilasciato, la direttiva si poteva usare, però 26. Quello non lo so, però sta storia delle antenne 5 ottavi, boh, forse perché guadagnavano troppo, però ma la concessione parlava di non poter usare antenne direttive, capito? Non, mi pare il vecchio disciplinare non parlava di né di mezz'onda né di 5 ottavi, diceva antenne direttive vietate, punto. La gente si inventa le cose e non legge le cose, ecco che cos'è. Se diceva direttiva, e direttiva la S, cosa entrava la 5 ottavi? A me non leggi, leggi. Ma di cazzate, dimmi, capito? Si inventavano le cazzate per dire le cazzate. E infatti erano le direttive proibite. Ti ricordi quando entrava uno nuovo che aveva stazionario, ovviamente, perché magari non aveva tarato, lo mandavano a comprare lo spray antistazionario. Sì, già me lo ricordo, la GVC. Come ricordo che l'avevano fatto, me lo ricordo. Ma lascia perdere che Pomponio mi aveva fatto un altro scherzo, io ero tredicenne, non avevo mai trattato radio. Mi aveva mandato da Fusaro, non da Fusaro, da Griscenco, il vecchio Griscenco lì, sotto il grattacielo, quello più basso, a comprare un oscillatore modulato in bassa frequenza. L'avevo chiesto, quindi sono guardati, hanno detto terminato, era un'altra cosa che non so per cosa, ed era una burla ovviamente. E poi che c'è che vedeva dischi quello lì, già vedeva oscillatori, vedeva dischi quello lì, quello che c'era sotto il grattacielo. Guarda, al massimo non so se vendesse qualche piccolo stereo, sai, quelle cosine, tanto per completare, ma non mi ricordo cosa serviva questa cosa, in teoria, anche se era una burla, no? Quindi non so cosa potessi avergli chiesto io, boh. Vabbè, e comunque bei tempi, dai, non esisteva internet, non c'era niente, c'era malapena il telefono e a caro prezzo pure. C'erano le cabine telefoniche, eh? Io ho avuto un telefono Falco, se si chiamano Falco, poi era una cabina telefonica. Le cabine erano utili per scocciare qualcuno che poteva telefonare per un numero sconosciuto, no, non di casa, ecco. A me, Marco, sai cos'era successo? Mentre mi chiamavo con questo amico mio c'è stata un'interferenza e abbiamo beccato queste ragazze che stavano parlando, ci siamo intromessi, ci sentivano e ci siamo dati la puntata di Piazza Castello e ci siamo anche conosciuti, lo sai? Mi pare che ne avessimo parlato. Guarda, era capitata a me una cosa con chi ero all'epoca, ma vabbè, stavo parlando io, era la ragazza mia dell'epoca. A un certo punto al telefono ci sentiamo in quattro, cominciamo a sentire un'altra voce femminile e un'altra maschile, sempre giovane. Tu chi è? Ho detto, ma c'è qualcuno con te? Ha detto no, e questi chi sono? Sentivo gli altri parlare. Insomma, ci siamo trovati in quattro in una chiamata telefonica normale e qualche pasticcio lì alla SIP. Era la SIP all'epoca, sì. Io a volte quando facevo la corretta di casa sono alzato, la sentivo praticamente, si sentivano le interferenze e ho beccato l'interferenza di una che stava chiedendo gli incursi alla professoressa per la figlia, e passa di temi che mettete, questo e quell'altro, per l'esame di maturità, mi raccomando, e non si preoccupare, dai, però ne parliamo col telefono, ed era una che mi stava in un palazzo. Beh, adesso tra un po' prepariamo, ho comprato la zuppa gallurese, stanno che ci mangiamo quella, io e Gabriele, è vero? Ma dormito, adesso fa proprio sveglio. Mamma, così andare quella roba, se li fa male. Guarda che fa bene, buonasera, grazie per pensare duro. Cazzo, boh. La salita deve usarsi i soldi, e si è sentito male. Ah, no. Buonasera anche a te, Tino. Ciao Tino, tu non hai salsiccia da darsi? Io no, ma sono per uso familiare, perché ne ho fatto 60 kg, io così ti sono regalato. Mi sono rimasto un paio di giri, dai, una decina di giri, ma quello me lo tengo io. Ormai i pensieri sono stati fatti. E non si indurisce troppo, Tino? No, perché è un procedimento particolare che a parte metterle sotto vuoto, che è quello già si sa, però poi c'è un'altra cosa da fare per poterla tenere tutto l'anno stabile. Sì, la gira, che girava di prima. No. Ma a me mi dura anche fino a tutto anche l'inverno, Tutto l'anno mi dura. Ma la conservati, dici? No, non la metto a conservare. Tutti i più medicali non fatelo in radio, sennò poi ti ascoltano e lo fanno anche loro. Sono così, insomma. Ma vabbè, senza te che mi dici che non sono conservati, basta questo. No, io non ne metto così, no, ma sto scherzando, no. Non mi interessa metterne, anche perché non è una cosa salutare. No, perché se no il prodotto non è neanche eccellente. Ma aspetta, la zuppa gallurese non è quella che si fa con la brodo di pecora? Sì, E non sai quanto è grassa quella roba lì, tu? Pensaci due volte a andartene. No, c'è il pane in mezzo, c'è la roba così. Ma cosa li pazzi? Ma una buccia non fa niente, non è che ne le do chissà quanto, ne le do un pezzettino, ma me la mangio io. Allora già, lui deve dire, stanotte mi faccio la zuppa gallurese e se ne avanza, forse. Buona è. Beh, esci, andiamo a vedere, va. Adesso vado a mangiare. Adesso chiamo il cipollino che è dormito, almeno lo metto a mangiare. Io oggi ho mangiato solo ghiacciuli, non oggi ho mangiato altro, perché c'è un caldo da morire a casa. Ma io e Bogopà ci siamo mangiati quella macedonia buonissima, e via. No, ce l'ho mangiato io e lui, senza conservanti, senza niente, roba tranquilla. Ok, dai, continuate che io vado a mangiare. Ciao tu. E buona carica quando la fai. Ciao Antonio, ciao, ci sentiamo. Comunque ha ragione Gianni, è troppo pesante quella cosa per il grinchedino, quindi evita di dargliene tanto, giusto a farla assaggiare, però è pesante. Andare. Io mi ricorderò, Tino, sempre una volta che è venuto questo amico da Ostia, eravamo nella zona di Tempio, e ci ha detto, andiamo al ristorante a mangiare, andiamo, qualche cosa di particolare che fanno qua, le sono la zuppa alla gallurese, lui, poi la buccia a mangiare, sono tutta la sera rutti, a mal di stomaco. Sì, ma guarda, noi lo stesso la facciamo, non la facciamo spesso, però lo stesso mamma la ricetta è buona, fa bene. È preferibile mangiarla a pranzo, così è tutto il tempo di digerirla, non fa mangiarla di notte. Esatto, perché il brodo di pecora è pesante, però. Io l'altro giorno ho visto la pecora, c'erano le costine di pecora, e il macellaio mi ha detto, ciao pigliatela fresca, mi veniva giù tutta la gara, cioè, vabbè. ho preso la gran piccola, quella elettrica, l'ho attaccata fuori dal serrato e me l'ho fatto. Una cantera buona. Ma buona veramente, sì, proprio un buon sapore. Sì, sono fenomenale, anche a me piace. Mi piacciono tantissimo, è che se ne mangi tanta, giustamente, anche quella è pesante. Ma io ho visto invece, ti dico la verità, che sono andato alla Conad a fare la spesa e mettono due freezer di roba sarda praticamente, non sia porcetta, agnello, queste cose qua. Ma forse già ce la fanno pagare. Qui alla Conad è tutto più caro, la frutta e la verdura sempre di prima, non si può dire nulla. È un bel cara, però è roba buona. La carne lo stesso, c'hanno carne bella e cosa, però costa un bella roba, non si può entrare, a meno che ci siano degli sconti, roba del genere, come uno di negozio, quando fanno gli sconti qualche cosa si può prendere, ma se no è caro. E io stavo ascoltando, ciao Antonio, ciao Tino, ben entrato. Una curiosità, nessuno di voi ha mai gustato la pagliata romana, così la chiamano, pagliata, cos'è, com'è, è buona, non è buona? Ciao Antonio, è buona, è come la pagliata nostra, è ottima. Ma fanno l'equivalente in Sardegna, come ingredienti, come preparazione, roba del genere? Io credo che la cosa migliore sia stata la griglia, la brace, poi sono altri metodi di cottura, non l'ho mai assaggiata. Vabbè, la sentivo citare, avevo su qualche ricetta, però non ho letto nemmeno la preparazione, come si fa, eccetera. Va bene, quindi questo brodo di pecora è bello bello pesante. La pecora, vabbè, a me piace, a molti non piace, non so, vabbè, la gente ha gusti strani, non lo so. E il maiale è grasso, è quello, è così, è quello, è pesante, alla fine cosa mangiano? Pollo e basta. Io già digerisco tutto ancora, ancora, poi si vedrà. A me tutto fa mangiare, ma come il maiale, come il capocollo di maiale e la pancetta non vi ne arrosto, vero ti? Già c'è qualcosa, già c'è, è buona, è buonissima, a me piace tantissimo, per fortuna delle carni che io cucino spesso, perché una massimo due volte al mese faccio tutt'altro, però quella già è buona. Allora, io gradisco più la fiorentina. La fiorentina però è bagnata, mezzo chilo di carne, quando non è un chilo pure. Io come sapore, guarda, non ce n'è. Il salsiccione non mi piace, non lo digerisco, è troppo pesante. Perché lo fanno, se sai cosa ci mettono in mezzo, il salsiccione non ne mangi più. Vabbè, ogni tanto ne spuntano nuovo. Già, l'ultima che ho fatto era 800 grammi, ti dico la verità che è stata una bella battaglia, ma l'ho vinta. Beva. Io l'ho mangiato una volta a Roma, ero con un'amica e con la mia ex moglie, siamo andati in questo ristorante lì a Roma e ce la siamo presa. Ma una l'abbiamo divisa in due, a chi lo aveva zio, sinceramente una con lo divisa come a lui, non ce la facevo. Ma a me piace molto, mi piace come sapore, quando lo fai bene, bello abbrustolito, il capocollo e anche la pancetta, sono una sciccheria, mi piace un bel. Anche la carne di cavallo fatta con prezzemolo, aglio e peperoncino, messa a macerare la giorno prima, fatta rossa, c'è buona anche quella. Certo che sì, vabbè, tutto buono, io per la carne sono, io vado matto per la carne, così. E anche io sono così, a me il pesce non è che mi caccia assai, lo mangio qualche volta ma non mi caccia. Mi piace di più i molluschi, i crostacei, i frutti di mare, però il pesce di per sé non mi attira. chila più di tanto, invece la carne sì, la carne è buona e via di drucco. È vero, tu Marcolini, com'è? Un po' di tutto, io vabbè già sono un buon gustaio, a me magari non devi dare quella robaccia quando la chiamo io il vietro, l'accoggio, io quella la mangio solo se ci metti l'uovo, la fai tipo affettata, il vietro, la cicoria, però fatta così bollita e con olio aceto non mi ci va, quella la lascio alle pecore, però carne, vabbè pesce non stravedo, tendenzialmente preferisco la carne anch'io, che sia morbida magari. Sì. E poi è molto buona anche la bistecca e il vitellone, Gianni, al posto del capocollo. Sì, quando sono tenere vanno bene, anche il vitellone è buono, e ce l'è cosa buona da mangiare, fammi di gusto. Non solo, ti stavi parlando poc'anzi della Conad che è cara. Io ti posso dire la mia esperienza, allora andavo spesso allo Spin, sono tra virgolette anche un mezzo abituale della spesa, no? Cioè quando vai a fare la spesa prendi quello, prendi quell'altro e ti fai una sorta di spesa, una spesa quella che normalmente consumi settimanalmente, dai. Ti dirò che ho visto un cambiamento notevole in prezzo, molto più caro della Conad invece. Sì, perché lo Spin ha capito che adesso la gente va lì a comprare e quindi cosa ha fatto? Ha alzato i prezzi, ma l'ha detto anche il commesso, la cassa. Ti ha detto, i prezzi sono aumentati di brutto, c'è ragione, cioè li abbiamo aumentati di brutto i prezzi. Prima si poteva comprare, ti riuscivi con un carrello pieno con 50 euro, ma non ti baciare il gento io, poi ogni volta che vado, anche se vado al discount, il minimo sono 70-80 euro. Gianni, e poi rilancio a Marco, Gianni tu, sono 70 perché, voglio dire, magari prendo una cosa solo per te, io sono in 4 qua, no? Fallo, aumentalo per 4 col prezzo lì, perché io quando mi sono uscito dal braccio, stiamo scherzando. Sì, no, questo è vero, lo so perché sono stato in 4 anch'io, quindi lo so, io ho 2 figli, quindi lo so che cosa vuol dire, però il fatto è che quando io ero in 4 avevo diverso stipendio anche. Sì, ma credimi, io non mi posso lamentare per quello che ho, però non basta perché le cose sono aumentate notevolmente. Io ho aumentato tutto, non ci può occupare manco l'asilo, ho preso una l'anguria l'altro giorno 8 euro, ma sta scherzando 8 euro, e la metto a posto. Ma questa qui è dei negrita, come si chiama, senza semina. Qua l'ho presa proprio per non fare studi e cose, però quasi 8 euro mi è venuto. Te ne dico un'altra, sono andato, che cacchio di negozio era quello lì alla Croce dove c'è il treno, dove non ha Isa, no? Se non mi ricordo, mi è venuta voglia di dirti l'agnello, ce n'era una, anzi, e una spaccata a metà.